ma un sacco già è. Se ci sono ragazzi ascoltando, quindi se catta bella gente che ci abbiamo, andava così. Ma già siamo due poveracci che moduliamo. Ma magari ci fosse qualcuno che entrasse, no? Sempre gli stessi di 2 o 3. Ma poi già là se non mi piace, li scrivo, lo sai, per carta non mi piace, ci attaccando agli stregosi. Nattalino che ci prende. Sì, e lui puoi dire a forci. Il canale lì si è entrata anima viva. Uno che puniva la portante, vera, e boh. Ogni tanto puniva la portante, però a famiglia Nisba. È proprio il canale di Dimocci isso, è diventato. Allora manca a farmi compagnia, invece nulla. E che canale era la portante, l'altalino? Sul 10. Dopo un paio di colpi importanti, però a parlare in Isba. Ancora esistono quelle persone? E purtroppo sì, Gio Mari. Per carità. Io pensavo fosse finito quei tempi, invece ancora ci sono. Qualcuno c'è, là. Ma dovrebbe essere a prova, quello lì. Andarsene. Cazzo, è ancora esistato. E vabbè, riprendo. Ma un attimo, chiedo il permesso di parlare. Ed io ringrazio che entro poco e ho la fortuna che ogni tanto sento qualcuno di recente come voi che almeno tenete un attimino vivo la frequenza. Avanti, Tore. Infatti è così. Ma chissà che quello con la portante non si sia pensato. Ma rimborso di nulla, va. Cosa ne vuoi dire, tanto magari il trambino le fa di peggio, per cui basta andare a lungaggia, già a calare, ma si vecchia, per carità. E allora Andrea, cazzo, ogni tanto ti fai sentire, fatti a sera, va. E purtroppo c'ho poco tempo. Avevo intenzione di, vabbè, l'apparecchiatura ce l'ho, i cazzi vari. Ogni tanto vi ascolto più che altro tramite il baracchino dell'egregio con l'altalino. E stavamo parlando poc'anzi, no, del fatto che non c'entra nessuno, forse perché è estate, magari sono tutti col culo all'aria a prendersi il fresco. E lui ci ha detto, facciamo una prova, facciamo una chiamata sul 23. Guarda un po' che sei uscito tu, è uscito anche tu. Allora qualcuno c'è. Ogni tanto, magari durante il giorno, magari no, durante il giorno. Io certe volte l'accendo, ma sbattolo e non c'è un'anima, per cui spengo subito. Però la sera così, dopo le 7, accendiamo il motore e qualche volta ci assentiamo anche. Non siamo proprio fissi fissi tutte le sere, però ogni tanto fa piacere, va. E poca gente, se adesso magari fa caldo, se ne va al mare, per cui il baracchino lasciamo a fare, Andrea. Quei tempi sono finiti, se mai mai. Vabbè, dai, siamo diventati grandi, questo è vero, in effetti siamo diventati grandi, abbiamo delle altre priorità. Mi ricordo i bei tempi che facevamo certe chiacchierate nel weekend, nel fine settimana, delle lunghe, ma a qualunque ora. Adesso siamo diventati vecchi, arcazzota. Poi c'è qui il signor Natalino, che invece di modulare, si guarda i film porno. Natalino, questo periodo, specialmente questo periodo, è di dolori, il cura caffè in mezzo, gatta. E che non vira i dolori, non lo sa, ma quando uno vira, per carità, però già entra la carina ogni tanto, capito? Per cui, però molta gente si è assentata sia per una ragione, più un'altra, per cui siamo diventati pochi, ecco. Però la maggior parte, sono 23, dalle 7 poi, un quarto d'ora, 10 minuti, ci siamo quasi sempre, Andrea. Poi gli altri, se non siamo sempre, pazienza. E infatti, ma te l'immagini questa Adriana, mi sta calunniando, cara. dali salire le cose, dai. Sì, no. Così è sto, ripreso. Sì, sto. Attali, come ti vuole bene, eh? Adriano, ti vuole bene? Sì, ce lo credo. Ma poi ti porto le troie negre a casa direttamente. Poi a Gerusalemme a Moglieri. Ma come arrivino beh, se no aveva bigliato un ruccio e aveva cominciato a far ruddami. Ero poi di forti. Aspetta. Dai, dai, andava a vedere. Avanti, Gio Maria. Così è to. Che mai mai, gatta, mette quanto, ma... Cacca, su mangiano tutta la notte, fammi sentire, cacca, su mangiano, fammi i studenti e andiamo a travagliare. Ah, te la metti, Adriano, che tempi, cacca. Però era bello, nonostante che c'era un bel gente un po' sporca, però faccia c'era lo stesso, va. Ma guarda, io mi ricordo che a quel tempo avevo 16, tra i 16 e i 18 anni, in effetti stavamo tutta la notte caffeggiando, c'erano le ruote, te ricordi le ruote? E poi la mattina a lavorare. E la notte ci avevamo appuntamento perché c'erano le ruote erano nel casco del canale 23, c'erano le ruote. Parecchi, è tutti canali, Cazzo, in tutti i 40 canali, sempre in piedi. Ah, vai per te, i cacuru, cacchi poco, cacuru, ma è un periodo che sta entrando poca gente, però con l'alterino intanto siamo sempre su 10, cacchi io intanto spazzolo, li sento, magari non ho più voglia io chiacchierare, capito? Magari ascolto, però a entrare magari a chiacchierare non mi va tanto, capito? Ormai... sono stufo. Ma lo sai, Gio Maria, a quei tempi era uno dei pochi modi di socializzare, perché poi cosa finiva? Tutti quanti che ci trovavamo, ci bevevamo qualcosa al bar, ci facevamo la pizza, o la fainecca, era un modo per socializzare che si usava a quei tempi lì. Adesso sono tutti quanti attaccati a internet e vaffanculo. Insomma, si faceva così, come trova l'uomo subito lo dovevamo conoscere e subito andavamo a trovarlo, certo. Che tempi, per carità, e vabbè, sono dentro fatti, adesso il telefonino ha rotto tutto, tutta la faccenda ha rotto, vai tu. No, a quei tempi io a quell'ora chiudevo alle 9 e mi buoni a dormire, che se no mangiavo ma ci appavo. Che dobbiamo andare a Sainataro Ponti e andava a mare, quindi io stavo tranquillo la notte. Vabbè, tranquillo, con Mario, cazzo la sera piazzavamo la tenna e lo mandavo nella cavava, di mezzo ci sta sciappava, cazzo, a te la mette Mario, la morale Mario Mao. Io adesso in questi giorni non stavo entrando, ma perché per ovvi motivi non ce la faccio manco a guardarmi il computer, perché ho la testa in brodo, quando uno non dorme ed è a dolori così, io vi ganna di vanuda. Però ho notato che gente nisba, il canale 10 è proprio morto. Le cose passano da lì, niente ormai, tante cose da fare, capito? Per cui, ma perlomeno, io non è che mi sono mai stufato. Sì, mi piace averlo e chiacchierare, però chiacchiero magari 10 minuti, dopo mi stanco e devo chiudere per forza, però ascoltare ascolto ugualmente. E molta gente è così spesso, capito? Magari ce la ascolta ma non entra, capito? Infatti, è isso, Io aggiungo sullo squelcio, proprio, ma non intendi, se no, pure un QRM mi devo usurbi. Aspetta, stavo in ascolto ma non entra nessuno. Cazzo, è proprio morta la situazione. Adesso martedì è arrivato l'istologico, vediamo un po' cosa mi dicono, se devo morire o se devo continuare a campare. Sì, bisogna sperare sempre a stare in casa, speriamo che tutto vada bene. E purtroppo poi non so quanti muoiono, ognuno ha i suoi mali, per cui lui ha acquistato la parecchia adesso, per cui la salute è certa. Ah, Ettore, non sente nemmeno, vero so? Ma, Natali, devi continuare a vivere, già te la aggiustano questa gamba, non lo trovi, già te ne lo cavano, vedrai. Già te lo fanno questa cosa, non ti preoccupare. A morire per sempre il tempo. Quindi. Non è la gamba, no. Non è la gamba, è altra cosa brutta, Passa indietro. Se c'è altra cosa non lo sapevo. Quindi, se c'è altra cosa, allora vuol dire che non lo sapevo. Andava bene, dai, appoggia. Piano piano. Adesso vediamo, lunedì devo andare a fare una visita e martedì devo andare per vedere questa dottoressa che mi ha chiamato per il zoologico e anche per chiedergli se mi dà qualche antidolorifico, perché non ce la faccio più a stare così. Perché la dottoressa mia purtroppo non mi segue, non mi dà niente, e cosa va? Stai soffrendo. A rinunci tutti i ruoli di ranuti aggiuntando. So, come ti hanno fradito, te lo dico, guarda, sono uno straccio. Ti comprendo. Ma ti capisco che i dolori quando vi sono terribili. Ti vedo anzi dolorifico da voi. Ti passano un momento e ti do ravvenito. Lo so, ma almeno a calmarti un po', cazzo, l'unica maniera, so che andai da fossa di brufa, il maro brufa, cazzo, non ti dura nulla, non mi basi neanche fetto più. Adesso martedì glielo dico a questa dottoressa, che non posso andare avanti così io. Se si fa così, non si può andare avanti così. Una moglie insieme. Allora se no se ci fai già parlare, cara Sari, cazzo, noi siamo usciti prima, qualsiasi cosa che avviami, e allora se no se te la giambari. Sì, infatti, ma parlancano qui, è stato un problema. Mi l'avevi fatta va da Giulio, mi l'avevi fatta va di Regna, cazzo. Di vino di Svezia mi l'avevi fatto di Nozzi. Allora, per carità. Il pallanca non è un problema. La mette di gamba di legno, ma conosciuto la vedi la taglia? Sì, sì. Era un policrino, doveva andare la taranca, doveva andare la taglia, ma la gamba di legno c'aveva il poverino, che ha ancora la mente. Sì, infatti. Oh, yeah. Adesso speriamo che vada bene questa studia. Martedì mi diranno se c'è qualcosa da fare oppure no, cosa vuoi ti dire? Beh, qualcosa si va fuori e si vede, lui ha per carità. Questo. Infatti è così, adesso senti cosa ti dicono. Magari ti fanno, poi ti dicono che ti fanno l'operazione. Mi hanno già operato, il giorno 20 mi hanno operato. E quindi c'è altra cosa, c'è. Hanno quello che ne hanno tolto, l'hanno analizzato. Adesso mi devono dare il responso di quello che è, per sapere cos'è che ne hanno tolto. Hai capito? Il rispetto tu stai aspettando allora, per saperlo, vabbè. Sì, infatti. Ma ne ha operato, la di 20, e noi paghi su so gadduroli. E ancora sto ancora a passare, boh. Speriamo che non ci sia niente di grave, dai. Boh. Ma si lavora già a sabì. Prima devo andare da chi su di la tiroide, mentre ci chiama. Bah. Fortunato se trovi gli appuntamenti. E li hanno presi loro gli appuntamenti, se no non ne trovino appuntamenti. E anche quello è vero, se li hanno presi loro è già un vantaggio, per cui ma rivendi, insomma. È triste, se non c'è maniera cosa, è triste la questione, ecco cosa è. È triste la questione. O come il fatto del coso di diabetologico. Il fatto che devi agitare più, a fine agosto devi aspettare. Sono un anno quello la vedo quella lì. Cazzo, un anno solo non la vedo. Mi serviva quel certificato per che non dovevo rinnovare la patente, cazzo. E meno male me l'hanno fatto. Cazzo. Però lei è in maternità, chissà quando rientra. Ma passano altri, baciano, non si può rimanere così un anno senza far nulla. Ah, e tu a me mi hanno dato un foglio da dare alla mia dottoressa, il piano terapia, dico, me lo fa la mia dottoressa di base. Infatti va, non lo so così quando più vai la dottoressa, chi va più vai a diabetologo anche perché non mi posso andare, chi sono in queste condizioni. L'avrà già telefonata e me la faccio passare e gli dico cosa tutto mi è successo. Diabetico pure sei la salino. E allora, tipo 2. Anche quella vuoi influenza, quella influisce parecchio, influisce parecchio, ma la lezione, ragazzi, un martello è. Ma speriamo che vada tutto bene, dai. Speriamo di sì. Ma adesso prima devo andare da questo endocrinologo, ecco, da questo endocrinologo devo andare lunedì e martedì devo andare da questa altra dottoressa che mi ha chiamato e vediamo un po'. Allora speriamo che il registro sia buono, per cui sia più tranquillo. Allora ci cerchiamo la serie, dai, che pochino che c'è la prendo gente, per cui da tutto. Presumenza, saluta Adriano, ciao Ascali, auguri, ciao, riprendi tu, io chiudo, ciao. Ok Giomari, ci risentiamo alle prossime, ok, ciao Giomari, avanti Natali. Grazie per gli auguri Giomari. Ciao Giomari, ma fate piacere sentirsi. Ti ha salutato anche Adriano, ok, da, anch'io saluto e me ne vo. Ciao dottore, grazie per la chiacchierata e ci sentiamo alle prossime. Tanto adesso girerò sempre sul 23 verso le 7 perché intanto sull'altro canale non c'è mai nessuno. Almeno a farmi compagnia, cazzo, non entra nessuno. Vabbè, là, ci sentiamo dottore, grazie ciao. Per la chiacchierata. Ciao anche da Adriano. Sì, ok, ciao Natalì, ciao Adriano, fatemi bene. Ci risentiamo alle prossime.